con Amedeo D'Atena del Festival Mix di Milano per parlare del film Tinta Bruta di Felipe Matzenbacher e Marzio Reolon, che sarà in programmazione a Milano al Cinema Spazio Oberdan dall'8 al 16 dicembre. Amedeo, ben trovato. Buongiorno. Lo presentiamo questo film? Sì, Tinta Bruta è un film a tematica LGBT. Parla di un giovane ragazzo, Pedro, di Porto Alegre, brasiliano, che ha alcuni problemi con la giustizia, sta affrontando un processo, quindi sta affrontando delle accuse abbastanza gravi, poi si scoprirà nel film. Diciamo che è un film di coming of age, quindi di formazione di questo adolescente. È un film che tratta questa tematica con una grande delicatezza, ma anche con lo sguardo di registi che hanno 30 anni circa entrambi, quindi riesce a dare, diciamo, questa una trattazione che è abbastanza nuova, è abbastanza fresca e, diciamo, anche piena di riferimenti e di elementi che sono tipici di questo periodo delle nuove generazioni. Come hai intercettato il film? Il film ha avuto un grande successo quest'anno, è stato presentato a febbraio al Festival di Berlino, noi eravamo lì come Festival Mix Milano a fare il lavoro di programmazione, quindi a fare ricerca sui nuovi titoli di quest'anno, e lì ha vinto il Teddy Award, quindi ha vinto praticamente il premio dedicato ai titoli LGBT del 2018. Di questi due registi sappiamo altro? Sono in realtà non molto, perché mi sembra siano alla loro seconda opera, quindi non abbiamo molte informazioni in realtà su di loro, quindi hanno fatto soltanto un altro cortometraggio prima di. Hanno fatto un film e un altro cortometraggio, quindi non hanno molto, però. Sì, diciamo già si sono fatti subito conoscere. Sì, sì. Allora, in parte già lo hai accennato, volevo chiederti quali sono gli elementi di questo film che più ti hanno impressionato. Il film colpisce molto già da un punto di vista dello stile cinematografico utilizzato, quindi le musiche e anche la fotografia. Le musiche sono molto atmosferiche e anche coinvolgenti, come sia anche giusto per un film che parla di adolescenza e di gioventù, ma anche la fotografia invece è molto particolare, come già un po' la trama del film può lasciare intendere. È una fotografia che ha toni scuri per mostro per gran parte del film, ma che ha anche questi lampi accesi di colori al neon, e quindi è abbastanza utilizzato. I registi, diciamo, hanno utilizzato anche i mezzi della trama e della storia del film per anche per rendere la fotografia e quindi la presentazione del film anche ancora più particolare e, diciamo, coinvolgente. Un'altra cosa che già ho un po' accennato prima è che il film tratta i temi della gioventù, dell'adolescenza, quindi del coming of age, con prima di tutto uno sguardo molto delicato da parte dei registi e anche un'interpretazione degli attori che è notevole. Mm-hmm. E poi lo fa portando nel discorso anche quelli che sono gli elementi delle nuove generazioni, quindi nell'adolescenza, diciamo, di oggi non ci si deve soltanto costruire un'identità nei confronti degli amici, comunque delle persone che si frequentano durante il giorno, ma anche un'identità che è quella virtuale, quindi che è quella che portiamo su internet, è quella che diciamo fa da biglietto da visita ormai oggi, e nel film questo argomento, quindi questo problema è affrontato, diciamo, abbastanza bene, ed è anche importante perché, diciamo, il coming of age è un film, comunque una tematica che è molto importante per un pubblico LGBT. Sì. In quanto è difficile, comunque, la quantità di film di questo tema che ha storie o comunque personaggi LGBT non sono molti, o comunque a volte è difficile avere accesso a questi film, quindi per un genere è ancora più importante. Quindi come Festival Mix non potevamo non includerlo nella nostra programmazione. Ecco, a questo proposito, per quello che si vede nel film, com'è oggi la dimensione LGBT in Brasile? Diciamo che il film non trasmette, diciamo, da un'idea abbastanza forte di quello che può essere la situazione. Sono delle realtà urbane che abbastanza non molto facili da vivere. Porto Alegre è una città comunque molto grande, non sembra avere, almeno negli occhi di quello che si vede nel film, comunque negli occhi del regista, una vita LGBT molto alla luce del sole. Ok. Sempre nel film c'è sempre una dimensione virtuale in cui si incontrano le persone, comunque si incontrano le persone, quindi la loro vita sociale a volte è legata a lì. E soprattutto anche nel film è molto presente il bullismo, quindi l'immagine che trasmette non è estremamente positiva. E anche se, diciamo, nel Brasile non si può ovviamente generalizzare, questo è sempre solamente una ciò che il film comunica, è la storia di un ragazzo lì, e anche se poi forse bisognerebbe anche un po' cercare di guardare la storia un po' così com'è, senza cercare di vedere, avere un'idea da quello che. Cioè, senza cercare di vederci un giudizio nei confronti della società in Brasile in questo momento, anche se è un po' quasi inevitabile, dato che date le notizie che arrivano da lì, però Sì. diciamo il film trasmette questo. Sì. E allora ricordiamo l'appuntamento con il film Tinta Bruta, di Felipe Matzenbacher e Marcio Reolon a Milano, al Cinema Spazio Oberdan, dall'8 al 16 dicembre. Un saluto e un ringraziamento ad Amedeo Grazie a voi. D'Atena del Festival Mix Milano. Amedeo, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto.